Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, chi le scrive è uno degli appartenenti al comitato vincitori non assunti presso il Ministero della Difesa come personale civile. I concorsi furono banditi tra il 2004 e il 2006. Da 2-3 anni sono uscite le graduatorie, ma purtroppo, in seguito al blocco delle assunzioni e del recente decreto anticrisi, non si sono avute notizie buone in tal senso. Ciò vuol dire che, pur vincitori del concorso presso il sopracitato ministero, attendiamo da anni di poter essere assunti e lavorare. È il colmo che un concorso bandito dallo stesso governo venga bloccato. E per di più, i vincitori di concorso rischiano di rimanere a casa dopo aver superato parecchie prove selettive e soprattutto dopo aver dedicato quasi un anno allo studio e alle trasferte in capitale, sobbarcandosi spese e sacrifici. Si tratta di una situazione grottesca che vede infranti i nostri sogni di trovare un lavoro degno dei nostri sforzi e che purtroppo risulta quasi sconosciuta a tutti. Cosa dovremmo fare? Andare tutti a Roma a manifestare a Palazzo Chigi? Bisogna sempre e solo ricorrere a questo per ottenere sempre qualcosa? In questi anni siamo stati sempre educati e non facinorosi, limitandoci solo a tempestare di mail e fax i vari mass media, senza ottenere alcuna risposta. Capisco che ci troviamo in un periodo parecchio negativo, ma riteniamo giusto che chi ha il diritto di lavorare venga rispettato. Cordiali saluti, Giuseppe. Caro Giuseppe, il vostro caso è purtroppo emblematico di una certa Italia che spero comunque possa essere considerata un'eccezione e non la regola. Non può che suscitare preoccupazione e sconcerto il fatto che lo Stato indica un concorso, designi dei vincitori e poi non rispetti le promesse e le premesse. La regola fondamentale del vivere comune è quella di rispettare i patti, pacta sunt servanda, come afferma uno dei capisaldi del diritto. Nella tradizione civile e popolare bastava una stretta di mano o il dare la propria parola per garantire il rispetto delle promesse. Mettere in crisi questo principio vuol dire mettere a rischio quel contratto sociale che sta alla base di ogni società. Ed è ancora più grave quando a non mantenere le promesse è lo Stato che dovrebbe essere garante del diritto. Ci possono essere tuttavia, come in molti casi di violazione delle regole, anche delle attenuanti e delle giustificazioni. Non bisogna dimenticare che rispetto a solo 2 anni fa lo scenario economico è profondamente cambiato e molti progetti hanno dovuto necessariamente essere rimandati per non aggravare la situazione dei conti pubblici. Può essere una giustificazione a posteriori, ma questo non toglie che qualcuno ha peccato sicuramente di imprudenza e di superficialità, promettendo dei posti senza avere le garanzie di poter mantenere la promessa. Non si possono trattare così le speranze delle persone. Gentile Radio 24, si è concluso in Canada il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali dei 7 paesi più industrializzati e si scopre che Inghilterra e Spagna non se la passano poi tanto bene. Comunque, meno bene dell'Italia. E adesso chi lo dice ai direttori dell'Economist e del País che noi poveri italiani siamo meno peggio dei loro illustri connazionali? Non so se ricordate, ma qualche anno fa l'Economist pubblicò una celebre copertina con raffigurato lo stivale ingessato dell'Italia che si reggeva sulle stampelle, mentre El País criticava il nostro paese e soprattutto il Premier per il solito problema del conflitto di interesse e le leggi personali, asserendo che non si sarebbe preso cura dei problemi economici del nostro paese. È triste dirlo, ma ride bene chi ride ultimo. Fabrizio. Che le coop metteranno in vendita carne di animali uccisi secondo la regola islamica, barbara e crudele, per cui l'animale non viene stordito prima di essere macellato, ma semplicemente sgozzato affinché si dissangui. Il tutto lasciando l'animale cosciente e quindi sofferente fino alla morte. Sembra che ci sarà un reparto dedicato ai clienti musulmani. Il business batte la civiltà e la si spaccia per tolleranza e integrazione. Dove sono gli animalisti? Troppo comunisti per criticare la politica delle coop? Personalmente non farò più acquisti in questi supermercati. Credo che chi viene nel nostro paese debba adattarsi alle nostre regole, non il contrario. Tolleranza, accoglienza, integrazione e rispetto non sono sinonimi di accondiscendenza e adeguamento ai disvalori altrui o negazione di nostre tradizioni, abitudini, cultura o, peggio ancora, di diritti conquistati faticosamente. Grazie, Mirella. Buongiorno. Si è sentito parlare molto in questi giorni della decisione della Fiat di dismettere Termini Imerese. Il governo e i sindacati hanno parlato molto senza affrontare il vero problema. La Fiat ha deciso unilateralmente di chiudere senza dare possibilità ai lavoratori di discutere il vero problema. Il problema si chiama produttività. Se costa troppo produrre in Sicilia, la Fiat dovrebbe chiedere ai sindacati e lavoratori di trovare insieme all'azienda una soluzione. Questo vorrebbe dire spiegare ai lavoratori quanto costa un'auto prodotta, per esempio, in Polonia e quanto costa in Sicilia. Se i lavoratori siciliani sono meno produttivi, ci sarà una ragione e ci saranno delle misure che loro, i lavoratori, possono prendere per produrre con meno costo e più qualità. Il governo può aiutare dando corsi di aggiornamento. Il governo può anche cercare delle soluzioni innovative, per esempio al posto della cassa integrazione guadagni, la cassa integrazione produttività, dove lo stipendio pagato al dipendente della Fiat è legato alla produttività e, se troppo basso, viene integrato dallo Stato. Una soluzione temporanea, mentre vengono aggiornati i modi di lavorare e i lavoratori stessi, per essere più competitivi. Oppure lo Stato può comprare lo stabilimento e affittarlo a una cooperativa di lavoratori che produce auto per conto della Fiat. In fondo, ha ragione Brunetta. Tanti italiani pensano che il primo articolo della Costituzione dica che lo stipendio alla fine del mese è garantito. Saluti, Gordon. Cara Radio 24, non è mai troppo tardi per capire che gli incentivi distorcono il mercato e spostano il problema avanti nel tempo, aggravandolo. Non è mai troppo tardi per capire che bisogna difendere i lavoratori con ammortizzatori sociali universali e non i posti di lavoro. Non è mai troppo tardi per, una volta tanto, essere di esempio agli altri stati europei non rinnovando gli incentivi. Non è mai troppo tardi per capire che sarebbe meglio incentivare i contribuenti e le imprese italiani destinando i fondi degli incentivi alla riduzione delle imposte, lasciando decidere ai cittadini e alle imprese come spendere il risparmio fiscale che ne deriverebbe. Non è mai troppo tardi per capire che magari a Termini Imerese potrebbe insediarsi qualche altra impresa, non necessariamente del settore auto. Magari questa è la volta buona per spezzare o almeno per ridurre il circolo vizioso degli aiuti di Stato. Inoltre, in materia di incentivi all'auto, si dice sempre che ne beneficiano tutte le case produttrici e non solo la Fiat. Però non mi pare che la contrattazione coinvolga anche produttori diversi dalla Fiat. Ciò a riprova delle giustificazioni irrazionali e illogiche che normalmente si danno agli incentivi. Grazie, Riccardo. Gentile Radio 24, ho 27 anni e sperimento che oggi per un giovane trovare lavoro è pressoché impossibile. E questo non avviene solo perché siamo in tempi di crisi. Molte aziende hanno appreso che far lavorare a costo zero o quasi si può. Basta utilizzare lo stage o il tirocinio. Le offerte per i giovani si traducono per la gran parte a questo. E anche nella fortuna di trovare un posto di lavoro regolare, ci si trova sistematicamente a lottare contro il precariato. Chi nega questi dati significa che si rifiuta di ammettere la realtà, magari perché gode di un posto fisso ottenuto qualche anno fa. Si ha un bel dire che il lavoro atipico è un fenomeno contenuto in Italia. Spesso ci si ferma prima, magari passando da azienda ad azienda, intervallando periodi di lavoro irregolare. Tutto ciò non serve, come si sostiene, a fare curriculum. È necessario solo per passare il tempo attendendo un lavoro su cui contare per qualche tempo in più. Certo, è più facile se papà ha un lavoro fisso e può contare sulla sicurezza e sulla stabilità che da questo consegue. Di fatto, è proprio questo il problema. Aver voluto riformare il mercato del lavoro, lasciando alle vecchie generazioni tutte le sicurezze del posto fisso e scaricando alle giovani generazioni la precarietà. La riforma del lavoro si doveva fare inserendo per tutti un concetto di mobilità sostenibile, coperta da un indispensabile flex security. Il sistema attuale porta a un gap generazionale che divide padri iperprotetti e figli in balia del nulla. E poi chiamateci pure bamboccioni. Con stima, Marcello. Cara Radio 24, chi sono i padri separati? Li vediamo sempre più spesso in TV, sui giornali, nei gruppi Facebook, fino ai canali YouTube. Non sono semplici papà separati, sono dei papà nuovi. Uomini che gettano la maschera stereotipata del macho, del Superman, e che con grande dignità e decisione affrontano telecamere, giornalisti, tribunali e sfide d'ogni genere per parlare di sentimenti, valori, delle necessità dei loro figli. Uomini spesso schiacciati tra il loro senso del dovere e l'anacronistico atteggiamento di tribunali che negano la possibilità di farli stare con i figli, ergendo un muro di divieti, distanze e preconcetti. Ma questi papà non si arrendono, sanno che in gioco non c'è solo la salute e la qualità di vita dei loro figli. Per questo sempre più si uniscono a migliaia, come ad esempio nel consorzio Adiantum, che in questi giorni ha intrapreso una causa collettiva verso lo Stato, disposti ad arrivare anche in sede europea, se necessario, per sollecitare il Parlamento ad approvare l'affido condiviso bis, cioè a non discriminare più i genitori in base a sesso o ricchezza, a nominare un'autorità nazionale di controllo sulla bigenitorialità, ad occuparsi dei 100.000 bambini che ogni anno subiscono una separazione non chiesta, a ricordare che oltre il 50% di questi bambini saranno costretti a dormire dal papà soltanto 6-8 volte al mese, senza possibilità di scelta, e che 25.000 di loro, secondo i dati Istat del 2008, vedranno il papà soltanto per 2 weekend al mese o meno. Voglio mandare un saluto e un abbraccio a questi papà di tutta Italia, papà che hanno buttato la maschera della paura e che con coraggio stanno ridando passione e significato a uno dei ruoli più belli e importanti di cui la società ha e avrà sempre bisogno, quello del padre. Fabio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.